Ai cinesi stanno facendo i soldi, cazzo, non hai capito niente. No. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Vai tranquillo. Mi sono rientrato. Ci sono. Ho capito. Ed è sono qua. Andrà bene. Stanno cominciando a caricare il carte, era ora, cazzo, che fanno per adesso, non rispondono, quindi vuol dire che stanno caricando le carte alle poste, meno male, speriamo che le caricano stasera, così sono tranquillo, mi faccio la spesa. E anche le poste già sono aggiustate, sempre in ritardo sono con queste cose, mamma mia. E a chi lo dici? Infatti che soldi li hanno caricati il 23, poi quando non rispondono più, come si chiama, la numero verde, devo dire che stanno trovando i soldi alle poste. Capite, ci metteranno quelle 3-4 ore perché parto dalla, con i cognomi dell'alfabeto, capito? A, B, C, D, eccetera, eccetera. A proposito, ti ricordi l'altra volta stavamo parlando di quella questione dell'accompagnamento, che lo bloccano quando uno entra nella struttura? Praticamente non è il caso nostro, perché se tu entri e metti una persona che ha l'indennità di accompagnamento in una struttura della ASL, quindi a totale carico della ASL, allora in quel caso viene bloccato. Se invece la struttura non è ASL e non è neanche convenzionata con l'ASL, ma è totalmente privata, a quel punto tu devi pagare la retta. La retta è tutta intera, per dire, sono 1500 euro, no? E quindi l'accompagnamento, l'indennità non te la tolgono, capito Antone? Mi saggesta, la verità è che non mi ricordo se apparteneva, come si chiama, la convenzionato con la SL, ma forse sì, perché c'andava due fesso corso ogni volta lì accompagnare i ricoverati a fare le visite lì in ospedale, capito? Penso che sia convenzionata, ecco perché. Sì, io ho chiesto proprio al patronato, ho capito questa cosa. Al patronato abbiamo spiegato com'era la situazione, no? Dice no, allora ci ha spiegato. Se la persona che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, che è un'indennità che si dà per quella persona che ha bisogno di una persona che si prenda cura di lui, allora se questa persona entra in una struttura della ASL, quindi dove c'entra un'istituzione, capito, è l'ASL è della regione, quindi dello Stato, oppure anche diciamo strutture che sono sovvenzionate, quindi in regime di ASL, capendo, prendono gli stessi finanziamenti e tutto, allora in quel caso viene bloccato, perché la retta, diciamo, è più bassa rispetto a un'altra struttura, quindi non ce l'ha, infatti non ce l'hanno levata fortunatamente. Sono entrato, ho scusato il telefono e stavo rispondendo. Antone, ti ho detto che mi sono informato presso il patronato di questa cosa, e loro mi hanno detto così: se è struttura privata non sovvenzionata te lo lasciano, in poche parole, altrimenti se la struttura è ASL completamente o sovvenzionata è come se fosse ASL e quindi te lo levano in quel caso, capito? Basta che, per dire, fai un mese e un giorno, due giorni, se vai in ospedale immediatamente ti trovo un accompagnamento. Quindi in pratica quando ricoveri un parente, quello che è un fratello, eccetera, eccetera, un padre, quello è, immediatamente se superi il mese, un giorno devi telefonare immediatamente all'INPS e dire guardi, per dire, mio padre oppure mio fratello è ricoverato all'ospedale e ancora non l'hanno tolto, capito? E quindi vi sto avvisando per quello. E se no, cazzo, devi istituire tutti i soldi dietro, stai scherzando? E quello è il problema, capito? Perché è come se li fossi dando due stipendi a loro. Ecco perché non lo fanno, non per altro. Sì, è proprio per quello, capito? E vabbè, dai, è giusto perché lo l'altra volta ne stavamo parlando. Niente, io adesso devo uscire, te l'ho detto, solo che ancora è presto, dalle 3, se tu mi hai detto che avrà le 4, devo passare lì, sotto casa tua, e poi non lo so se mi faccio un po' di spesa e me ne rientro, ma esco alle 4. Adesso mi devo mettere a posto questo orologio, si era, diciamo, fastidioso in camera di mio figlio, no? Di quegli orologi a muro, però lui gli serve per l'ora, dice, però fa troppo baccano, allora gli ho detto ti ordino uno di quei meccanismi silenziosi e così non ha più lo scatto e quindi mi metto a fare questo 5 minuti, tanto ci impiegano, non è che... Sono i copri di quelli di orologi ad indomi, ce l'hai presente, quelli che fanno... proprio lui qui, li metti all'ingresso, lo sai come si alza la mattina, tanto che sveglia, In passato già c'erano quelli, suonavano a tutte le ore, erano la gente che ci dormiva, capito? Oh, yeah. No, questi sono i classici orologi da muro, capito? E solo che hanno quelle ticchettio fastidioso, di notte al secco, silenzio, ti rompe le balle. Io penso che in cucina era così, lo sentivo, in camera da letto, il clic, clac, sempre così. Alla fine l'avevo cambiato anche in cucina il meccanismo, cioè l'orologio l'ho lasciato perché era bellino, di quelli da cucina colorati eccetera, però il meccanismo gliel'ho cambiato, costa 2 cifre, solo che quando fai gli ordini queste cose ti arrivano dalla Cina, ci impiegano un sacco di tempo. Già lo so, già, tutto per così. Antone, adesso mi sa che mi preparo un caffettino e nel caso ci sentiamo più tardi, dai, e poi esco a fare qualche commissione e passo anche lì vicino a casa tua e niente, se sei in ascolto già ti faccio chiamata con la radio dalla macchina. Io sono qua all'ascolto, non c'è problema, non ti preoccupare, vado io alle 4:30, devo andare a vedere se funziona la cartina, così vado a farmi la spesa stasera, sì. Dato che non rispondono per niente, stanno facendo il caricamento, siccome lo fanno per cognome, quindi A, B, C, io sono B, quindi dovrei essere tra i primi, speriamo bene. Torno alle 4:30 a Pessonia, entro lì, gli do la carta a Gianni, Gianni prova a vedere se funziona. Se funziona lì, dove vai vino? Fatta la, come si chiama, il certificato ISE? Tutto fatto, tutto nuovo ho fatto, certificato ISE, DSU ho dovuto fare, se no devo restituire tutti i soldi indietro, cazzo, tu da nulla sono, 3 anni e mezzo di 7 per 3, cazzo, 18.000 euro. Ho capito, perché praticamente a volte bloccano se uno non ha fatto il certificato ISE, capito, che lo rilascia l'INPS, ti bloccano anche la pensione, il reddito di cittadinanza, tutto quanto, quindi meglio farlo entro gennaio o febbraio massimo, capito, così non ti bloccano niente. No, ho fatto tutto prima di gennaio io, ho fatto intorno al 23 di dicembre tutto. Tutti i documenti, meno male, il DSU gli ho fatto fare tutto, adesso devo farmi fare tutta la documentazione e farmi le visite mediche, lì all'ospedale, solo che c'è la questione del Covid, quindi è un casino, sto aspettando un po' che la curva si abbassi, in modo che quando telefono alla Cagliari almeno che fanno fare le visite mediche a Lidamo oppure al Conte, capito? È una giornata di andare a Oristano o a Cagliari per farmi una visita medica, non saranno. E quindi sto aspettando un po' adesso, come scende se quest'estate qui scende immediatamente la curva del Covid, che rimane quasi a zero, immediatamente faccio quelle domande, mi faccio subito le visite mediche. Così poi presento l'aggravamento, se mi danno il 100% mi piglio la pensione con l'accompagnamento. Ho capito, Antonio, beh, quello devi, ti conviene aspettare come la situazione migliora, dai, magari riesci a fare tutto a Sassari, capito, con le visite lì. e non stai a farti il giro da Cagliari o da Ozieri o da altre parti. Non ho nessuna voglia di viaggiare, andare a Ozieri o di Stano a fare una visita medica, stai scherzando. Se me la faccio qualcuno, ti ho l'inamo, la stecca bianca, quello che è, non me ne frega niente. Così sono più tranquillo, capito? Sentiamo dopo, già ti faccio chiamata prima di arrivare dalle tue parti, capito? Se sei in ascolto, al limite ci prendiamo un caffè sotto. Va bene, non c'è problema, già sono qua all'ascolto. E a dopo allora, Antone, ciao. Ciao Carlo, a dopo, ciao. Devi fare la copia e te la metti l'altra là sopra. già lo so, ma la parola che mi cucì. Tanto se va a arrivare, quelli lì mi arrivano spesso, non c'è problema, non ce n'è bisogno di altezza. Magari l'altezza in città ci vuole, ma per togliere gli ostacoli, ma io la cucino, me la faccio in unta. Bene, veda, bene, veda. E va bene, va bene. Però un po' sollevato adesso, l'abbiamo messa tutto come era prima, però però già si è sbloccato il tubo. La mia, cioè, questa già è alta lì, cioè sono 5 metri, cioè sono 4 metri e 80 in tutto. A voi la tua è molto più corta di questa qua, La mia è corta, sì. Cioè, devo dire che sono alti in quanto l'antenna. È caricata diversamente. Sì. Però già si sta comportando bene, dai. Pensavo peggio. Oh, quella proprio qua non ce la metterei mai. Ogni amare rivenga. E la cosa tu? Io si trova la televisione, no? No, poi è troppo complicata, lascia perdere. Questa invece è tutta una e va bene così. Sì, quella complicata, cioè radiale è buona tu, devi solamente avvittarli e stai viaggiando qui. È tutta da avvittare, boh, finita. Non c'è, non devi dettare né niente. Sì, io la uso la Grand Prix, vabbè, però preferisco questa qua. Dipende. Ognuno ha le sue preferenze. Va bene, va bene, ma non c'è nessun altro quanto? Ah, quanto fa stamattina? Non lo so perché stavo lavorando stamattina. Hai visto, poi ti lamenti che non lavori. Stasera siamo fermi, devi portarci i clienti. A conoscere già te avrei mandati, ma qua sono tutti col gas di città, insomma. Un giorno lo vedo un bomboleo da queste parti io. Ah, che già le porto in quella zona. Dipende Antu, dipende, va. Non è più come prima, no. Come pare che li facciamo i dubbi? Basta che non tocchi il mio. E cosa te ne va? Bombola ci vuole, però lavorare noi, no, che ti mangiate. Va bene, ecco qui, c'è ragione. Quelli migliori, i soldi ce li hanno, noi siamo bombarati, noi facciamo la giornata e boh. È il bello della cucina che se si rimette la bomba non funziona il sistema degli ogelli. Sì, lo sapevo, avevo nulla da modificarla. Io lo so, prendi subito e metti gli altri. Sono più sottili, giusto, lo gelo più chiuso hanno, più stretto. Ma il gas rende di più a Roma, cioè il gas GPL rende di più rende del, di che c'è gas di aria preparata. L'uccello grosso ci vuole. Quella sta lì. Ciao, Antu. Quello già ce l'ho. Anzi, cosa siamo? Un bisbizzone minori. Lo bisbizzone buon manno. Appunto. E beh, Natale, buonasera. Ciao Daniele, buonasera. Questo Antonio con l'uccello piccolo, l'uccello grande ci vuole. Se vuoi il mio grosso, ti bruciamo per i balletti. E allora buoni biru minori. Oh, ma che con lo stesso segnale sto arrivando qua, Antonio, Natalino. Tutto questo segnale avrete. Oh, potrei arrivare anche più forte. Sì, quando ti arrivi Natalino, vabbè, pure c'è il barco aperto su per lui. Ma da casa non penso che ti arriva quando ti arrivo io, no? Vabbè, io sto parlando, tutto questo sei lì e sto facendo il confronto. Tutti 9:15 abbondanti siete. Manca un pelino per arrivare a 9:20. Sì, aspetta. Sì, vabbè, se tu pensi, ti fai un giro. Ah. Daniele, quanto ti arrivo? Sempre 9:27. Sai che ho fatto fare, signori, capricci? 9:20. Ora, allo basso. Daniele. Dimmi, Natalia, aspetta che qua c'è un problemino, non sta più uscendo questa radio. Ehi, guarda il segnale per vedere quanto ti arrivo. Cavagava. 9:26 Natalia adesso. Tutti. E prima quanto ti arrivavo? Era Antonio. Sì, a me la rocciolina, lo so già che lui. E perché io quanto stavo uscendo? Quanto ti arrivo adesso, Antu? Adesso sono per me qua. E quanto ti arrivavo prima? Già lo so, era per far vedere a Daniele che gli poteva arrivare più forte, là abbassiamo il tutto che è meglio, e che togliamo anche un po' di radio che se no è troppo. 9:20 ieri, 9:20, ecco qua, c'ho questi cacchi di PL che ogni tanto si allentano, guarda. Cambiaglielo quel PL, vuol dire non serve a un cavolo. Cosa ti volevo dire, Daniele? Prima quanto ti arrivavo, cioè adesso quanto ti sto arrivando? 9:10, compiti 9:15 quasi. Io sono molto più alto. Adesso tu sei salito. Sto arrivando, alla massima potenza sono. Ti stai mangiando la radio, 9:20 sei anche tu adesso. Abbassa la Rubiuvaru, Antua, abbassa Rubiuvaru. Chi non ve ne bisogno, siamo a un tiro di schioppo tutti. Ecco, ha passato Rubiuvaru. Natali, è che non lo posso attaccare, no? Se no, se abbiamo attaccato di sagosa a casa. Lascia così che c'è una radio è Super 5, Antu, bel forte. Dubbiate l'antenna, ti porta a beffa di volto. A Parì non lo sfidare, non che si gigi me. Ma io lineare non ne uso. Ma io sì, c'ho quella mania. Lineare non ne uso, che qua non funziona intanto. Anche se lo metto qua non funziona. Ecco, breco, breco. Sì, funziona, ti dinne. Aspetta, Bianco, vuole entrare qualcuno? Avanti, chi è che vuole entrare? Buonasera. Ciao Daniele, buonasera. Natalino, buonasera. E Antonio, buonasera. Saluti da Giovanni, cambio. Ciao Giovanni, buonasera, ben sentito. Ciao Giovanni. Antonio, Giovanni, la Ramona mi sembra, no? Forte chiaro, senso tecine, forte chiaro, Antu. Ma cosa hai utilizzato? Perché sei più basso dell'altro volo. Ma chi è l'altro che vuole entrare sotto, Pio Pio? Chi sei? Cristian. Ciao Cristian, ben sentito, e dove sei? Pio Pio stai arrivando qua, con la radio bassina un po', Ma lo sentite voi? Andate lì, bombolino, lo sentite? Ma Cristian. Ce l'ho. Cristian, dove sei? Tu già mi senti a me? Adesso un po' è migliorato, Cri. Magari il movimento, io non lo sento. Sentivo poco fa che parlava, ma no, ma era incomprensibile. Io se per me dal QRM lo sento. Ma dov'è? Te l'ha detto? Perché hanno sentito un Natalino proprio vuol dire che. E chissà che zona è. E io non lo sento perché c'ho l'antenna bassa, la colpa è mia. Non vedo l'ora di piazzare l'altra antenna, che la metto più in alto, così almeno qualcosa in più sentirò, avrò anche il cavo migliore, capito? Ma quando è che ce la facciamo a stasera? Cosa, Antu? quando è che ce la facciamo? Prima devo piazzare le staffe, ce le ho già qua, c'ho tutto qua per piazzare, lo sto aspettando una bella giornata per piazzare le staffe, poi un attimo a scenderne questa e a piazzare l'altra, e tanto ce la saliamo telescopicamente perché il palo qua è telescopico. Adesso è piazzata male, viene male a scenderne là solo, capito? Poi a piazzarla è una cazzata, perché non ha manco radiali, l'antenna che devo piazzare, quindi viene bene a piazzarla. Ah, va bene, la cazzata, un giorno che ci organizziamo, ce la saliamo su. E infatti ho le corde con i moschettoni già piazzati e tutto per i tiranti, è tutto a posto qua, tutto pronto, devo piazzare solo Rubiel e Nirugabu, se vogliamo essere proprio fiscali. C'ho il cavo buono, c'ho, infatti quel cavo che c'è adesso lo metto nell'altra antenna. Ok, dai, e poi vediamo di come si dice. Vediamo un po' di bravo, però quello quando pure quella lì devo scendere appena fa caldo. Dal tetto, quella mia, devo controllarla tutta. Sì, cazzo. Già va bene, cioè vuole revisionare un po'. Già l'avevo messo un po' a posto che c'è un mullato di viti sopra. Gli ho dovuto stringere, mettere vulcanizzato, un po' di roba. Adesso appena che fa bel tempo la riguardo, la metto un po' più su la porto. Lì che stavano chiamando. Che è quello che stava chiamando? Sì. Prova, Sacri. Riesco a sentirti perché c'ho l'amplificatore dell'antenna, capito? Sei sulla Budi Budi? Va bene, va bene. Non volevo che non senta Cristian. C'è QRM, mi ha parlato a smettermi, magari lui mi sente. Io fa un passaggio, capo. Anche quella radio la ripiango, che collegamenti che facevo. Ho un passaggio dal masculaccio. E quale? Questo è Superstar, non è l'87, no? Ah, è Superstar. Neanche te ne accusi quando li cambio. Prova a fare un passaggio con l'eco un po', vedere come gira. Guarda un po', con voi. Prova la situazione quando lo parti. Però lui me ne vendo uno, me ne vendo di apparecchi, mi prendo quella bestia che mi hanno fatto vedere. Quella è una bestia veramente, Isho Yuya. E quale apparecchio devi prendere, Anzu? Una sorpresa, me ne devo vendere uno che mi ha già girato le balle. E vediamo, dai. Scappa. Ui Zanca, e quale devi vendere Antus? Adesso vediamo. Quale? Cappa. E adesso l'ho cambiato, io adesso sono col Superstar. Mi ha aggiustato tutti e due i microfoni e adesso sta funzionando anche questo. Non ricordo la tali quando ce l'avevo io, l'87, girava lui, impattiva quell'apparecchio con me. Ci vuole la voce grossa. Sì, me lo ricordo. E poi a me, già lo sai che mi piace c'è un su cosa attaccato. E poco pompava. E te credo. Bello. Se te lo ripiango ancora, che babbo me l'ha venduto, però me l'ha preso io. E cazzo. Daniele, come ti sta arrivando col Superstar? Sei, 9,5 sei Natali. E questo è il Superstar 3009 omologato, capito? Quello senza lo smitter centrale, va lo smitter, il frequenzimetro centrale. No, non è a smitter questo, cioè non è a frequenzimetro questo, c'ha solo i canali, lo smitter analogico, è quello omologato, 40 canali, 4 watt e boh, c'ha le bande laterali, c'ha tutto, però canali in più non ne ha, la potenza è 4 watt. Brava, brava. Dai, facciamo girare, chi c'era? Cristian e poi Gianni, Giovanni, chi era? Ciao, vi sento tutti bene e sono in ascolto, dai, continuate tranquillamente. Ciao, ragazzi. Cristian, tu ci sei ancora? Cristian stava facendo la Buddy Buddy e poi è sparito. Cristian, io non lo so. Tu, dove stava facendo la Buddy Buddy? Poi non lo sento più. Sì, ma c'è l'impianto della macchina che non sta funzionando bene. Perché io mi ho messo l'antenna magnetica, ho l'antenna magnetica, mi stavo parlando con Gianfranco, sono sceso a Plaza Mona, me ne sono tornato dalla strada di Porto Torres, cioè, e parlavo benissimo. Claudio, buonasera. Ciao a tutti, ciao Cla. Ciao a tutti, ciao. Ciao Cla, buonasera, ben sentito. Ciao, ciao, divertite. Che era. Riprendi i bomboli. Via. Boh, chi sa di essere Cristiano. Lo sta guidando magari, no? Non puoi far rispondere. No, ma vedi, siamo pure sceso dalla macchina, sta facendo qualche cosa. Va bene, riprendi Natale. Sì, questo è il... Che vuoi che ti dica? E quindi, buon lì, cosa ti vendi? 4,40, te lo vendi? No, tu callo, visto, non ti tocca. Non tocca, se. Perché cosa ti serve 4,40? No, a me, c'è una coppa un'altra radio, bombolino, lì ce la vuoi prendere 4,40 parecchio. Infatti, adesso si vendeva le 4,40. No, si tocca quello. Quindi anche quello non tocca, se. No, se ti serve un 4,40 già ce l'ho io uno sotto mano. Già va bene questo, Claudio. Col 14 va bene. Poi un pareggio, dopo i due mesi ti da capire. E quale qua? Il 4,40? 4,40 devi comprare da chi sai che te lo dà a posto. Se lo prendi su internet e ti foto. Ah, quello è poco ma sicuro. Quello sì. È un casino poi trovare gente seria. Se te lo vende tutto buono. Tu immaginati che Antonello glielo ha fatto comprare con il portatore, c'è 4 o 5 anni fa, è di una perfezione, mi ha detto che non viene bene a dito, e tutti quelli che ho venduto io, di mai, dico, ma sto parlando di 6, 7, 8 anni fa, mai mi hanno telefonato a dirmi niente, mai, perché gli ho dati sempre revisionati, capito? Se non li dai revisionati, allora sei fottuto, ti durano un anno e poi ti danno un piedi. Ma io ne ho avuto due e non mi hanno mai fatto nessun difetto, Cla, nessuno. E sempre che sei stato fortunato tu, perché quelli che hai comprato erano tutti e due miei, perché tu ne hai comprato uno da Nello Mangattia ed era il mio, gli ho dato nuovo il pack, e l'altro l'hai comprato da un'altra persona che era lo stesso il mio. Mai nessun difetto mi avevano tutti e due, e ce li ho avuti tanti anni. Te lo sto dicendo perché, capito? Perché non li hai comprati su internet a vedere. Perché non hai comprati su internet? Quelli che hai comprato tu erano tutti e due miei. Tutti e due miei erano, capito? Perché ne ho avuto 12 io di 4,40, non uno, 12. E quello che hai comprato, il primo l'hai comprato da Nello Mangattia, ed era il mio, nuovo infatti. Il secondo l'hai comprato da un'altra persona, che non dico chi è, ma era sempre il mio, sempre revisionato, capito? Quindi quando li compri da persone fidate, sei tranquillo, ma quando le compri su internet che non sono revisionate, il VCO ha già lavorato anni, ti lascia a piedi. Vabbè, me lo posso immaginare. Ma che volete dica? Io me ne sono pentito di avermelo venduto, quello l'ultimo che avevo, ragazzi. Gli ho dato anche l'alimentatore da 40 ampere, quello che avevo io, ragazzi, era modificato, era una belva quell'alimentatore. Quello che Antonio ad esempio è nuovo, perché quello era una persona che conosciamo tutti, l'aveva appena revisionato, appena tutto fatto, una bella taratura, ed è nuovo, capito? Tutto lì, però rimane sempre il fatto del però, mentre io di 440 non ne ho più voluto sapere, perché io l'avevo comprato e 4 volte l'ho dovuto mandare al centro assistenza, 4 volte. E allora me l'ho venduto e mi sono tenuto il 430, e non dà problemi. Il 430 è più meccanico, innanzitutto come dice il trasmettitore, al 440 se lo mette in culo. Quello è poco ma è sicuro, non ci sono dubbi. Ha qualcosa in meno, ma a me dell'accordatore non me ne frutti nulla, però come dice il trasmettitore è superiore. E non lo dico io, lo dico a tutti quelli che ce l'hanno radiomatori compresi. Ma molto meglio del 440. Va bene, poi il muletto rimane sempre il 140, no, non ci sono dubbi su questo, ce l'ho anch'io il 140, la linea completa, Daniele mi sono comprato anche la T250 e c'ho tutta la linea completa, e quello rimane qua, non lo do più. Ah, ce l'hai fatta trovato, perché ho visto pure uno urgente, la T250 sul mercatino. No, a me me l'ha fatto avere Luca, se ne è occupato lui, Luca Flipper. Ha proprio comprato lui tutto, dato i soldi, nuovo. Inizialmente appena attaccato, ma forse ero io che non mi ricordavo il collegamento, non mi segnava le stazionarie, infatti pensavo fosse rotto, invece avevo sbagliato il collegamento, quindi, ma è nuovo, perfetto, l'ho provato e funziona benissimo. E c'è una linea completa con l'accordatore, che poi si può attaccare anche al 430 volendo, e lo puoi invertire, puoi fare la linea completa del 430, il 140 lo usi normale, capito? Usando un HF, quindi ti accorda con l'accordatore automatico, oppure tenete la linea del 140, però sono dei bei pezzi. Vabbè, mi stavate parlando di amplificatori, io ho tolto un amplificatore, quello grosso, il valvolare, l'ho acceso, sentirete la ventola, ma acceso giusto per farlo scaldare, poi lo stacco e lo rimetto a posto, perché è un po' di mesi, un bel po' di tempo dentro l'armadio, in realtà se lo tolgo l'ho appoggiato sopra il Galaxy, anche se è più grande del Galaxy, però è acceso, se sentite questa ventolona, no? Non è un problema. È gentile. No, ma devo attaccare i cavi, devo attaccare tutto, me la fotti nulla, ma di stare, se dovesse servire, già c'è sempre, non c'è problema. Adesso quest'estate tiriamo sulle antenne, facciamo il lavoro che deve essere fatto, e la mantova la mettiamo in punta al traliccio, e così vediamo se migliora qualcosa. La musica che migliora. Vabbè, qua è fortissimo, anche a casa già, che sono più di tante, già è buono il segnale. Comunque io devo trovare qualcuno che mi sistemi, perché mi dà difetto, che mi sistemi il cavetto dietro dell'MC60, non quello che va dal... L'altro cavetto, perché è quello lì che mi sta rompendo le scatole. Devo trovare qualcuno che me lo sistemi. Quello che ci prova attaccato al microfono. Quello piccolino che va dove c'è il circuito di amplificazione, dove c'è il PTT, al microfono, quello piccolino, non quello spiralato. E cosa va? Dov'è che tocchi tu? Dove c'è il microfono sotto? Beh, il filo, quando rompe un pochettino, tocco un po' il microfono e poi tocco... È il filo, si capisce che è il filo, perché io ho toccato anche dietro, da, gli è passato, mi devo mi fa un pochettino di un pochettino di gasino. Io me ne accorgo perché poi mi ritorna indietro, me ne accorgo dall'apparecchio, capito? Devo trovare qualcuno che me lo sistemi quello lì. E io voglio ne parliamo anche, non è un problema. Già ci sentiamo e parliamo. Se quel filo che va dal microfono alla pianta alla base del microfono, quello è una fesseria. Ora c'è che ci sia qualche saldatura all'interno fredda, qualcosa che tocca, non tocca, ti crea quel problema. Ce lo mettiamo a posto, non è un problema. Avanti Daniele, prendi, dai, io vi lascio 10 minuti, vado a farmi la barba, a sistemarmi, se ci siete ci sentiamo dopo. E funzionano alla grande, va, tutti e due. Ci sentiamo, buona barba allora, là. Io passo in quel rettile e devo fare una telefonata. Eia, già siamo qua, dai, Claudio e Natalino, non c'è problema, io stesso altro pochino perché poi più tardi devo fare le commissioni. Ah, vero? Ah, vero, e chi è? Quindi dopo si può entrare, salutare, là. Va bene, là, quindi siete tutti andenti. Ehi, ciao ragazzi, buonasera. Ehi, ma sì, dopo tanto tempo, buonasera. E allora, com'è? Qua siamo noi a far girare un po' le radioline, farle scaldare. E tu? Sì. Aspetti, stiamo parlando in due. Assomiglia, io arrivo con la tua. Ma tu, Santiago 5 mi arrivi, dai, oggi non c'ho, per il momento non c'ho quel disturbo famoso. Mi arriva Santiago 6, anzi non 5, Santiago 6, radio 4, là. Non siamo vicini, tu sei un bel lontano, ma già mi arrivi lo stesso, guarda, già non c'è nessun problema, tu sei 7-8, guarda, già va bene. 9-10 sei qui, Massimiliano, tappicchi positivi, buoni. Va bene, dai, per fare un giro in città così va bene. Zitto, vai, non ammazzo. Comunque se la picchi se, otto, a volte sbaglio, secondo me quando fa sbagliare a 9, ma scusate dove andò a tocca potenza. No, guarda, sto già no, due vasi con Jarax, là, e poi c'ho il picchio, lo senti da fianco. Un picchio. Ah, in te, hai fatto risentire il fischio? Sì, io ce l'ho impiato di corso, ah sì, la calopsita. L'accompagnatore c'hai? Sì, qua beh, Massimiliano, ho aumentato il segnale. Guarda, è aumentato a 7, Antonio, però devo essere sincero, te ne hai mangiato la radio, eh? Lo so, perché troppi batteri da, aspetta. È una cosa allucinante. Prima ti ascoltavo meglio, la radio era 4, dai, non 5, perché è un po' bassina, però ti ascoltavo meglio, invece quando agganci così te ne mangia completamente la radio. Sì, no, vai in FM, vai. La potenza già va bene. Cosa, tu, scusa? Teniamo questa potenza che già va bene, dai. Mettila come la prima, quella radio, cioè era Super 5 prima. Sì, l'ho messa come la prima, adesso va bene. Adesso è più forte, più squillante, o no Massimiliano? Sì, così è meglio, la radio è meglio così, Antù. Hai meno segnale che poi da 6 si è passato quasi a 7, attenzione, non è che sia andato molto avanti, Però così la radio è molto superiore. Questo è tutto quello che posso dare, non è che non è una potenza. E anche lì vivo chissà già l'usaio. Il drone ci vuole, il drone. Ma anche quello piccolino con quella modificata la fa viaggiare. Bianco, sai cosa devo subito? E che sì, con la voce oltre tomba. Sì, già ti sento, aspetta un attimino che mi attacco una cuffia, aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova radio. Sì, ti ascolto adesso, dai, io ti ascolto meglio. e con poca potenza. Ma è solo la radio questa, solo la radio. Va bene, già, se no adesso. No, dai, California, tu mi ascolti, sì. E io ti ascolto, da Santiago 8 mi sta arrivando. Cambio, dai, va bene, dai, tutto all'ordine, era giusto per fare una prova se era tutto positivo, dai. Santiago 3-4 mi arrivo, ma io ti ascolto lo stesso, va. Prova di nuovo? Dai che ho cambiato di nuovo. Santiago 5 Radio 5. Cos'è da campagna? Santiago 3 Radio 2. Va bene, adesso va bene. Il russo è perfetto. Vai, riprendi a tu. Ehi, stavo dicendo, ma cos'è da campagna? Ehi, non lo senti? Non molto bene, oggi. L'altro giorno l'ho sentito, oggi non molto. Stavo toccato di QRM che mi sta uccidendo. Lo so. Ehi, non toccare questo tasto, Antonio. Che io non ci sto entrando in radio, che ho questo fastidio, Santiago 7-8, un rumoraccio che dura, ancora non ce l'ho, ma mi sembra strano che non ci sia ancora. Però si attacca questo rumore strano e dura tutta la notte, vinza l'indomare. Sai cosa sono? No, cosa sono? Quale allete? No, negativo, già ho fatto tutte le prove. Allora è qualche vicino tuo che ce l'ha. Già lo so. Adesso domani devo fare un'altra prova. Se ho fatto via la carabina e risolvi il problema. Prova a tirarne prima uno, poi l'altro. Quando rimane a Rugugio, provi, se non me lo fatti più andare. E faremo così, dai. Avanti, Fra. E anche io mi ero appena entrato, sono rientrato a casa. Allora, con lui mi mostra la doccia, va. E niente, sono entrato a salutarvi perché non c'ho questo disturbo, ho detto magari poi si mette questo disturbo e non fa più a modulare, va. No Franco, già ti ascolto io, Carlo da questa, buonasera Massimiliano, Antonio e non so chi ci sia. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao Natalino, ciao Fra, buona serata e buon tutto, dai, ci sentiamo alle prossime. Forse io questo Carlo non l'ho mai sentito, avanti. Buonasera Massimiliano per la primera, sì anch'io ti sento per la prima volta, forse non stavi modulando ultimamente, io ho ripreso da inizio anno, dai, prima ero in un altro QTH e quindi adesso sono a Sassari e da qualche anno ho ripreso. Ah ok, va bene, perché diciamo che mi sono staccato anch'io per un po', e adesso mi sono ristaccato perché purtroppo c'ho un fastidio e non fa parlare. Mi arrivo molto bene qua, 9:20, non so se sei in zona bella aperta per di Sassari. Una luna e sole. E allora è perfetto, dai, va benissimo. Va bene, avanti, cuocuomane. Massimus. Natalì, com'è? Tutto a posto? Tutto a posto, da mettere a posto, Massimiliano. Quello da mettere a posto, tutti dire, ora metto un garage, lo usare, che ormai non si vede nulla. Kappa, va bene. Anche tu mi arrivi bene, Natalì. Avanti, bombolo. Buonasera. Ciao Antonio. Qua sono il più forte di tutti. Più forte di tutti. Fai forza, più forte di tutti, Antonio. Lui è vicino a me. Ci mancherebbe altro che da Trento già se ne va a curtirti. Arriva forte, 9:40 arriva. E anche qua arriva forte, qua arriva 9:20. E va bene. Tanto l'importante è partecipare, a Rosario, con un viago di fava. Va bene, dai signori, io mi stacco e me ne entro in doccia. Là. Ci sentiamo dopo se coincide. Ciao Carlo, Natalino, Bombolo, Franco e tutti quelli che sono in ascolto. Ciao ciao. Massimiliano. Avanti Carlo. Antonio, ma dove sei al lavoro? Sono qua. Mi arrivi forte qua, è chiaro. Mi ero in aggiustamento, praticamente mi si è rotto il forno a microonde e ne ho dovuto prendere uno nuovo. Il vecchio non l'ho buttato, ho capito cosa cos'è il guasto, adesso me lo aggiusto, mi ho ordinato già il pezzo, il magnetron, quello che praticamente genera le onde, le microonde, no? 19 euro, se invece lo porti in assistenza ti prendono dalle 90 alle 120, me lo aggiusto io e buonanotte, mi rimane come forno di ricambio. Ciao, ma dai, io vi devo lasciare, devo uscire. Ciao, ciao, ci risentiamo, saluto a tutti, ciao ciao. Sarà giustito o fai prima? Ok, ciao ciao. Quanto ci sentiamo? Echine, Echine, ciao Antu, a dopo se coincide. Eh sì, va bene. Dai, mi senti adesso? Adesso sì, forte e chiaro sì. Visto, adesso già la teloce. Già va bene, anche prima ti sentivo, soltanto che c'è la radio pace, capito? Aspetta un secondo, ok. Infatti con la tua radio riuscivo a sentirti meglio di radio, capito? No, adesso mi sono sentito già, ho il microfono. E perché se ti stai, con questo movimento sta oscillando il segnale, capito? Sale e scende. Va bene, chi è arrivato qua? Sono rimasto io. Ciao Daniele, alle prossime, anche io me ne sto andando. Ehi, a Natale. Dai, alle prossime se coincide. Massimiliano, chiuso. E dovevo andare a farci la doccia. Capito, vai Dani. Cappa di Rosmetro. Va bene, va bene. Riprendi di qui. Ciao Daniele. Buonasera, buonasera. Va questa. Ciao Natalia, se stai andando via, ci sentiamo. E ciao ciao Carlo. Che ho da fare? E vado via per quello. Sentiamo le prossime, dai. Yeah, buonasera Cristian, prima eri alla Body Body, ti sentivo, ti ho sentito anche l'ultimo passaggio. Avanti Cristian. Cristian, ci sei? Ci sono. Brava, benedetta. Da dove sei arrivato? Adesso ho girato l'angolo, adesso mi fermo 5 minuti, dai, e poi riparto. Cappa, riprendi Carré. Ti sto arrivando di radio, satura oppure buona? Compreso, sì, si sente. Guarda questo passaggio se va meglio. Hai un passaggio più lungo? 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Leggermente meglio. Ho abbassato un pochettino, dai, perché se no troppi watt. Campo di Rosmetro. Chi è? Cristian, tu sei? Sì. No, io sto bene a casa, non c'è problema, guarda. Tu magari perché sei in movimento e cosa, sei anche più, un po' più distante, quindi si attenua la compressione, capito? Magari noi siamo più vicini e mi accorgo di più. Vabbè, quello poco ma sicuro. Perché anch'io se attacco, voi mi sentite tutti bene e lui mi sente compresso pure a me. Guarda, se io metto l'antenna a casa, Tino non va compresso, non mi attacca, perché io abito quasi vicino a Tino. Cava. E quindi ti fa lo stesso studio, dai. Esatto, quindi adesso questa primavera, inizio l'estate, anch'io già metto l'antenna sul tetto, vai. Riesco. Ti sento basso il radio però, Cri, molto basso, C'è il microfono da modificare, che non so modificare il microfono. C'è il microfono da modificare, sicuramente in mezzo ai palazzi, Cristian. Perché il segnale c'è, però la radio è, insomma, è un po' così. Sono vestito alla stazioncina di Santa di Pisa, parcheggiato. Cappa. Quindi adesso siamo vicini, dai. Si può dire che sono quasi di fronte a te. E guarda, adesso me ne salgo al sacro cuore un attimino a vedere l'altro QTH piccolino. Cappa di Rosmetro qui. E va bene, riprendi Carlo. Provo a fare una chiamata perché prima avevo le mani occupate, ho sentito che c'era anche Giovanni da Platamona, non so se sia ancora in ascolto. Ci sei Giovanni? No Carlo, sto facendo un po'. Dai, comunque sono stato in ascolto. saluto tutti quanti. Sì, a Giova, ci sentiamo, un saluto, perché ero da parecchio che non ti sentivo. Se stai facendo, continua pure, avanti Daniele. Sì, siamo passato avanti, sono anche Giovanni adesso, cosa è successo? Sicuramente ha cambiato radio. Sta arrivando, sette di segnale, va bene, ecco il problema, la radio è bassissima lo stesso. Non sto diventando io sordo. Magari stava parlando anche lontano dal microfono, capito? Io ho notato che è più basso di segnale, anche di radio, ma siccome lui alterna a volte due radio, eccetera, può darsi che abbia cambiato. Gara. Va bene. Già, sistemerà il tutto, sperando più presto, così. Arriva sparato anche lui. Sì, perché Platamona comunque è aperta come zona, diciamo, e sia sul mare che verso Sassari non ci sono ostacoli, quindi da lì dovrebbe arrivare bene, ma anche con 5 watt. Sì, perché il segnale ce l'ha, però gli manca la radio anche a lui. Vedi, adesso ha parlato e non sono riuscito a capire cosa ha detto. Daniele, io c'ho il microfono, ma però mi ha partito, io c'ho un DM1000, che non funziona più però. Non c'è il verso di sistemarlo, no? Guarda, io posso fare un cancello, aprirti una porta blindata, dare un po' di proiettile, ma sui microfoni non ci metto mano io. Come si dice, non ho saltato giù. Quello è bello col microfono. No, mi si è staccato un filo là dentro, un filo nero, non so di dove sia neanche. E non ho capito dove sia, e non vogliamo anche ritoccarlo neanche. Non lo so. Se non ci si mette le mano è un po' un casino. Se no si rischia di fare danno. Va bene. Riprendi Carlo. Sì, io mi dicevo prima, sto riparando un forno a microonde e c'è il magnetron, quello che genera le microonde, insomma, è rotto, perché tutto il resto funziona bene, ho controllato, il forno si accende, alimenta il display, l'orologio, funziona tutto anche all'interno, non scalda più, però fa un rumore un po' strano. Ho chiesto un preventivo dai 90 ai 110 euro, allora sono andato, me ne ho preso uno nuovo, quello l'ho portato giù ed ero sul banco, me l'ho smontato questo magnetron, ho preso il numero di serie e un LG, l'ho ordinato per 19 euro, adesso lo sostituisco e magari mi rifunziona il forno, me lo lascerò come ricambio, capito, però ci spendo 20 euro. Buono, volevo sentire 2 minuti, arrivo subito. Vai Daniele, non ci sono problemi, tanto sono qua in ascolto io. Carlo. Attento Carlo. Vai Claudio. Oi. Ascolta, sto provando una radio col microfono normale, mi dici quanto è il segnale, faccio 2 passaggi, riesci ad attenuarne? Ora qua come segnale mi arrivi 9 più 30, fondo scala, la radio è forte e chiara, è ottima. Microfono normale. Ascolta, riesci a attenuarmi a vedere se si abbassa la potenza? Che sto facendo delle regolazioni su una radio vintage. Io se stavi facendo prove su altri canali ero sul 10, sentivo il beep, però ho detto ci deve essere qualcuno su altri canali, quindi ti sentivo anche sul 10. Ero sul 14 e sul 15. Ascolta, si abbassa così la potenza, questa c'ha 2 potenze, questo è il primo passaggio e questo è il secondo passaggio, noti qualche differenza? La radio la sento leggermente più alta nel secondo passaggio. Nel secondo passaggio leggermente più alta, quindi così la radio è più alta, mentre così... Aspetta. diretta, la mazza di Nevaria. Invece così va, però va bene la radio. Sì, la radio va bene. Ho notato che quando prima hai fatto il cambio si nota la differenza, capito? Leggera, ma si nota. Vediamo se si nota così. Allora, questo è il primo passaggio e questo è il secondo passaggio. Si nota la differenza? Adesso ti sei abbassato. Di molto? Che differenza c'è da questo passaggio? 1, 2, 3, stai attento, guarda, sto facendo una prova molto importante.